Sport. Quali informazioni ti dà l'ufficio sport? Trovi tutte le informazioni sulle attività sportive di quartiere nella pagina del sito internet del comune indicata qui sotto. Se hai dubbi o vuoi un chiarimento, puoi contattare al telefono l'ufficio del quartiere e chiedere informazioni.